passa il tempo e la voglia e dimezzi, ma ben pochi argomenti per ribellarci. Il governo è lavoro, è l'amore, è la vita. Stiamo solo aspettando che sia troppo tardi. Non mi chiamare stasera, no, devo informarmi su Google. Sì che ti amo, ma come no, ho anche la tua foto sul mio iPhone. E tutto va inevitabilmente avanti, anche se non te lo senti. Siamo incontrati e ci siamo piaciuti e ci siamo baciati e alla fine ci siamo anche lasciati. Ci scegliamo, poi amiamo e poi odiamo e ci lasciamo. Sono tutti ricordi dimenticati. Non mi chiamare stasera, no, devo informarmi su Google. Sì che ti amo, ma come no, ho anche la tua foto sul mio iPhone. E tutto va inevitabilmente avanti, anche se non te la senti. Tutto